Ritrovati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Oggi riprendo con qualche piccolissima difficoltà tecnica, ma che riuscirò a superare senz'altro nell'andare della puntata. Volevo un po' introdurvi a una puntata lunghetta, nel senso che ho molti argomenti da trattare, ma d'altra parte ho saltato 2 settimane, avevo quasi raggiunto il traguardo di un mese di fila e purtroppo sono dovuto ripartire da capo, perché alla 4ª settimana mi sono brutalmente arenato, la mia vita non mi ha concesso la possibilità di trasmettere, oppure la mia ignavia non mi ha dato la forza per riuscire a farlo nonostante tutto. Però ecco, per fare venia a questa mia mancanza, questa volta ho programmato una puntata ricca di un sacco di informazioni. E parto subito con la prima, che non è una vera, diciamo, non è una vera chicca presa dai quotidiani e dai giornali e dall'internet come faccio di solito, ma è l'annuncio che a Roma, durante la riunione preparativa all'ECC Meeting di quest'anno, si è giunti, dopo lunga e faticosa discussione assembleare, ad avere un luogo e una data. E quindi ve la comunico e poi ne riparleremo più avanti. Il luogo è il Buridda, che si è un centro sociale di Genova, dentro il quale sta un grosso laboratorio, ecco, che io ho avuto occasione di visitare. È un luogo molto, molto interessante dal punto di vista almeno mio e spero anche delle persone che mi ascoltano. Loro sostanzialmente hanno un qualcosa che va al di là del classico e-club, nel senso che non si occupano soltanto di cose informaticose e robe di elettrotecnica, ma vanno ben oltre. C'hanno degli oggetti tipo una piegatubi, c'hanno delle cose tipo delle stampanti 3D, ma queste un po' ce l'hanno tutti quanti. La cosa interessante è che loro gliene danno secche con le frese, le saldatrici a elettrodo e oggetti di questo tipo. C'hanno anche una falegnameria e quindi questo apre delle possibilità, secondo me, interessanti a livello di hacking, cioè non si parla solo più finalmente di computer che palle che noia sempre davanti alla tastiera, non si tratta solo di stare lì piegati a saldare con un saldatore minuscolo e a stagno, ma finalmente possiamo abbracciare la meccanica in tutta la sua bellezza. Ecco. E così niente, si è deciso appunto che questo sarà il luogo. Le date si parte, cioè si passi, diciamo, si salta il tradizionale giugno, cioè quest'anno non sarà a giugno l'ECC Meeting, ma sarà nella prima settimana di luglio. Non quella che viene dopo il 31, cioè non l'1-2, ma la successiva, cioè il weekend successivo, che penso sarà il 6-7-8, se non sbaglio. Ora con un apposito calendario vado a verificare. Comunque il fatto che il primo sia domenica mi porta a dire che ho sbagliato. Ho sbagliato perché secondo me era il 5-6-7. Ora lo vediamo grazie ai miei potentissimi mezzi. Ecco, un calendario a terminale, nel senso che non c'ho il calendario fisico, anche se l'avessi lo dovrei girare ed è scomodissimo. E andiamo a verificare la prima settimana, la seconda settimana di luglio, esatto, è il 6-7-8, e invece no, avevo fatto bene la prima. Quindi, ECC Meeting quest'anno al Buridda a Genova, il 6-7-8, un venerdì, sabato e domenica. Non mancate, se siete in quella zona, è luglio, lì più o meno c'è anche il mare, quindi se volete farvi un giro, non sarà bellissimo il mare di Genova, però magari vi spostate da lì a un po', capito? E trovate anche un luogo dove potervi rinfrescare se il luglio sarà caldo, caldo, caldo. Questa era la prima notiziola. La seconda notiziola è sempre un evento, nel senso che si vanno ad avvicinare le date di una cosa che invece avverrà qui a Firenze, in particolare nei locali del CSA Next Emerson. Anche, cioè, quest'anno, dopo credo un anno di pausa, abbiamo deciso di rifare Brugole Merletti, che è sostanzialmente un'appendice alla fine di Hack Meeting, ma un'appendice dedicata più alle cose, più che informaticose, alle cose pratiche, in questo senso completamente in linea con forse quella che sarà la linea, spero, boh, almeno io mi divertirò così, dell'ECC Meeting di quest'anno al Buridda, nel senso che non si parlerà appunto solo di codici, computer, eccetera, forse qua a Firenze quasi per nulla, ma si parlerà invece appunto di tante altre cosine che vi dettaglierò mano a mano che ce le inventiamo. Per ora registrate solo la data, 21 aprile, E vi posso già anticipare che ci saranno delle collaborazioni con il gruppo di Critical Mass di Firenze. Quest'anno, infatti, a Firenze si svolgerà la CEMONA, che è l'incontro annuale di tutti i Critical Mass italiani e non, e che sarà invece a maggio. Però già il 21 aprile avremo delle sorprese in questo senso. Ora vi lascio con un altro pochino di musica e così mi preparo la seconda notiziola. Non è vero, ho sbagliato. Ora forse vi lascio con un pochino di musica e mi preparo la seconda notiziola. E dati questi appuntamenti, torniamo ora a parlare invece di cose più legate al mondo dell'informatica e dell'internet. La notizia con cui volevo aprire è una notizia che diciamo c'è un po' da un paio di settimane, gira per la rete, però è uscita una statistica abbastanza interessante da leggere. Se visitando i vostri siti preferiti, quelli grossi grossi, che non saranno senz'altro i miei anche preferiti, però tipo Google, Amazon, tutti questi qua, grossi grossi, ecco, forse avrete notato, ma c'è anche Pornhub comunque tra quelli colpiti da questa cosa. Comunque se insomma siete fruitori di questo tipo di siti, avrete notato forse che c'era qualche rallentamento, qualche volta non erano raggiungibili in queste 2 settimane. Ebbene, il motivo di questa cosa è essenzialmente perché da un paio di settimane circa i dati che vengono qua riportati sono relativi il 24 febbraio e diciamo, la tabellina che ho davanti segna come ultima data di questo grafico che ora vi vado a illustrare l'8 marzo. Quindi tendenzialmente si parla di una cosa della settimana scorsa, ma comunque ancora interessante. Ebbene, cosa è successo? Si è verificato uno degli attacchi DOS distribuiti. Un attacco DOS sarebbe un attacco denial of service, cioè quando si genera talmente tanto traffico verso un sito che sostanzialmente il sito collassa e quindi lo si rende in parte irraggiungibile. Ecco, diciamo, era da un po' di tempo che non si sentiva parlare di queste cose, andavano molto forte anni fa, però ora è venuto fuori una vulnerabilità in un software che si chiama Memcached, che è sostanzialmente un software che utilizzano in maniera massiccia i grossi siti, sostanzialmente per rendere più veloce la navigazione. Cioè un software che sostanzialmente pone l'obiettivo di registrare tutta una serie di contenuti che passano continuamente in rete, sempre uguali, magari immagini o cose di questo tipo, e quindi tenerle in memoria perché non si debba continuamente andare a richiedere al sito, al servizio che di solito le fornisce. Questo implica che quindi poi le macchine che devono fare il lavoro per Google, Amazon, eccetera, lavorino un pochino di meno, perché l'accollo se lo piglia questo Memcached, e questo si traduce in un'architettura che è tendenzialmente più veloce. Se non che questo Memcached ci aveva un problemino, cioè si prestava bene a l'amplificazione di un attacco DOS. Che cos'è l'amplificazione di un attacco DOS? Significa che se per mandare una, per mettere in crisi un certo sito, io gli devo mandare una grossa quantità di dati, è estremamente utile trovare dei modi per fare sì che, a partire da una mia singola richiesta, quello che risponde, in questo caso Memcached, si incarichi di mandare una risposta che è ben più grande rispetto alla mia richiesta. Cioè, per esempio, se io faccio una richiesta a questo Memcached e la mia richiesta, sia di 14 byte, ecco, se io riesco a ottenere da questo Memcached una risposta che è molto più grande, e riesco a fare tante di queste richieste, ottengo che il sito Memcached sostanzialmente, il sito che sta facendo girare Memcached, vada a mandare al mio obiettivo, al target che ho puntato, una quantità enorme di dati. Cioè il fattore calcolato è veramente grosso, cioè si parla di riuscire ad amplificare una richiesta molto piccola fino ad arrivare tipo a 1000 volte di più. Questa cosa non è particolarmente eclatante, se non fosse che a un certo punto questa vulnerabilità è stata pubblicata in rete, e si sono, insomma, sono stati forniti diversi tool, diversi proof of concept di questa vulnerabilità, che hanno reso questa roba abbastanza semplice, nel senso che se nel 24 febbraio i DOS riferibili a questa vulnerabilità di Memcached erano 91, e quando i giorni passavano e questa vulnerabilità era stata resa nota, iniziavano a circolare gli script che quindi poteva utilizzare anche l'hacker medio, che magari non sarebbe stato in grado di sfruttare questa vulnerabilità da solo, ecco, gli attacchi si sono amplificati tantissimo. Cioè il primo marzo se ne registrano 2053, e si va avanti così sostanzialmente per tutto marzo, tanto che il 7 marzo ancora se ne registravano 2008 di questi attacchi. E quindi cosa è successo? Che sostanzialmente sfruttando questa vulnerabilità questi tool messi a disposizione in maniera molto semplice, qualcuno, non si sa bene chi, qualcuno ha iniziato ad addossare a caso un sacco di pezzi di internet. E questo si è tradotto sostanzialmente in un allarme generale, e poi qui non si capiva più niente, cioè nel senso che non era più distinguibile, no? L'origine dell'attacco non era più chiaro, poteva essere qualcuno che semplicemente si annoiava, oppure provava della soddisfazione nel vedere collassare pian piano qualche grosso attore dell'internet moderna, oppure magari qualche stato che aveva un interesse a mettere in crisi un altro stato dossandogli dei pezzi della propria infrastruttura informatica, e via così. Insomma, si è creato un po' di caos in rete, e niente, io ve lo riporto così che mi sto divertendo sostanzialmente, cioè non mi fa un sacco ridere a me quando succedono queste cose, perché appunto spesso basta veramente poco e il nostro bel mondo super informatico va in crisi con semplicemente un bug postato cioè un bug anche molto semplice da sfruttare, e questa cosa manda in crisi per giorni, settimane, infrastrutture che fanno dello stare perennemente online sostanzialmente il loro business, no? Cioè avranno perso un sacco di soldi questi magari. E quindi niente, alle volte basta poco per rallegrarmi la giornata, sono fatto così. Ora vi lascio con un altro pochino di musica e mi preparo la notizia successiva, un po' meglio di questa, che in questa qua ogni tanto mi impappinavo, ma stasera è un po' tutto così e la puntata è pure lunga, figurate. Ero anche dimenticato di dirvi che quello che ascoltiamo questa volta è un best of dei Public Enemy. Ne ho dovuto scegliere qualcosa di molto lungo perché appunto avevo intenzione di fare una puntata molto molto molto lunga e ho quindi pensato di riproporre, come nella mia ultima trasmissione di qualche settimana fa, in cui avevamo ascoltato un album dei Public Enemy, ho pensato di riproporveli di nuovo e quindi quando smetto di parlare sappiate che vi state ascoltando il best of dei Public Enemy. E quello di cui volevo raccontarvi adesso è una storiella legata all'utilizzo che alcuni ISP, cioè alcuni fornitori dell'internet, cioè quelle persone, quelle strutture che in Italia sono, che ne so, la Telecom, la Vodafone, la Fastweb, eccetera eccetera, quelle aziende che vi forniscono l'internet, e non le ho nominate per fare pubblicità ma solo per farvi capire di che si parla. Ecco, questa è una storia legata agli ISP di alcuni paesi, in particolare parleremo di quelli della Turchia, della Siria e dell'Egitto, e di alcune malefatte che questi ISP hanno perpetrato, complici governi o i non governi locali, e non governi nel senso che la Siria, si parla di governi in Siria, e quindi hanno perpetrato a spese dei propri utenti e in particolare a spese di alcuni utenti molto particolari. La Turchia, ad esempio, e anche la Siria, attraverso quella che viene detta Deep Packet Inspection, cioè sostanzialmente le loro infrastrutture di rete sono composte di tante macchine. Il ruolo di alcune di queste macchine è quello di router, cioè di pigliare il traffico da una parte e mandarlo dall'altra. Se te stai in Turchia, prima o poi dovrai passare da qualche router che ti fa andare in tutto il resto del mondo, perché così funziona l'internet. Cioè, dopodiché, chi controlla quei router di fatto controlla il traffico del paese per gran parte, così come è in Italia, così come è in qualsiasi altro posto. L'ISP quindi ha una grossa ha una grossa responsabilità, ma anche un grosso potere sull'utente finale. La Deep Packet Inspection non è nient'altro che un acronimo per definire sostanzialmente la possibilità di questi router di controllare il traffico ad alto livello, cioè loro non girano solo, ma capiscono anche che cosa stanno girando. In particolare, che ne so, se avete del traffico web, ecco, la Deep Packet Inspection permette di ispezionare precisamente quel traffico web. Allora, cosa hanno pensato bene questi governi, tipo anche quello turco di cui noi siamo tanto amici? Hanno pensato bene di utilizzare questa cosa sostanzialmente per controllare meglio alcuni particolari tipi di utenti, ad esempio i giornalisti, gli avvocati, i vari difensori dei diritti umani, gli attivisti, gli avversari politici e via via. E in che modo? È molto semplice, in realtà tecnicamente non è neanche una roba così difficile per un ISP, l'idea è semplicemente quella: te vuoi scaricare, che ne so, una app, che ne so, di crittografia perché vorresti cifrare le tue comunicazioni? Bene, allora cosa fa il governo turco e cosa fanno il governo turco e quello siriano, per esempio? Se te sei un target nella lista dei target qua, quando te vai a scaricare i target sarebbero insomma gli obiettivi tipo quelli detti prima, cioè giornalisti, insomma, bla bla bla bla bla. E allora tu vai a scaricare l'app legittima, loro semplicemente vedono che stai cercando di scaricare quella cosa e allora ti deviano da un'altra parte, laddove ti fanno un'app che probabilmente è uguale a quella che volevi te, ma non troppo uguale, cioè fa le stesse cose che volevi, ma in più ci attaccano sotto anche quello che viene definito un malware, o in questo caso si parla spesso di FinFisher, che è uno spyware sostanzialmente prodotto da un'azienda che poi lo rivende ai governi e un po' a tutti i governi, anche quelli brutti brutti, per spiare sostanzialmente le comunicazioni degli utenti. Ecco, loro ti rimandano su questa app che ha quello che viene definito Trojan, cioè questo cavallo di Troia, quest'altro pezzetto di applicazione malevola, che quindi te ti porti sul tuo cellulare, sul tuo computer, eccetera. A quel punto te avrai pure il software per cifrare le comunicazioni, ma chi se ne frega, tanto nel momento in cui vai a comunicare, loro saranno già sul tuo computer. Siccome te non scrivi cifrato, loro potranno sapere quello che stai scrivendo perché te ti sei messo un'app malevola che, oltre a fare quello che deve fare, prima magari si salva anche tutto quello che hai scritto e glielo manda al governo turco. Oppure cose di questo tipo, no? Quelle di cui abbiamo già parlato tante volte. Che ne so, ti fa lo screenshot di quello che stai facendo sullo schermo, ti fa le foto con la videocamera e queste cose qui. Queste robe il governo turco le ha fatte sostanzialmente senza informare gli utenti e con la complicità delle grosse compagnie, cioè delle telco turche sostanzialmente. La stessa identica cosa avviene anche in Siria, sostanzialmente, dove le app target di questa cosa erano anche molti noti antivirus. Quindi te sostanzialmente pensi di metterti l'antivirus, in realtà ti stai mettendo un antivirus con il virus interno. Forte, no? Poi, che ne so, i target in Siria erano anche i browser, quindi, che ne so, Opera, Firefox, Chrome, tutte queste cose qua. E quello che invece hanno fatto in Egitto è ancora più furbetto, nel senso che il primo era sostanzialmente era diciamo, era riferito al controllo politico di qualche tipo, in particolare sarà agli attivisti del PKK, insomma, tutte quelle strutture che, non so, che sono invise al governo turco e siriano. Invece, in Egitto hanno fatto una cosa più furbetta che è tesa a fare soldi. Cioè, loro hanno sostanzialmente cosa hanno fatto? Hanno preso una pagina legittima e dentro ci hanno buttato del codice, in questo caso JavaScript, che minava criptomonete. Cioè, sostanzialmente, questa fa un casino ridere, nel senso che loro volevano andare a minare attraverso questi script, cioè a sfruttare le tue capacità di calcolo di un computer per minare a loro beneficio delle criptomonete. Quindi se ci riuscivano, poi loro incassavano del denaro e sostanzialmente mettevano assieme un mega cluster, un mega computer atto a minare criptomonete, ma senza dirglielo agli utenti. Cioè te visitavi una pagina e pensavi di stare solo visitando una pagina, in realtà stavi utilizzando la tua potenza di calcolo anche per fare i soldi all'ISP e forse anche, non so, forse anche al governo egiziano se si erano messi d'accordo prima. Comunque, tutte queste belle cose ve le potete leggere se andate a cercare sul sito di Citizen Lab, che è un gruppo che si occupa essenzialmente di fare monitoraggio sulle attività di governi, dello spionaggio, diciamo, di governi e cose e strutture simili, nel quale è pubblicato appunto un report piuttosto esaustivo che vi spiega per bene tutte queste cose. Poi chiaramente sul blog metterò anche dei riferimenti, dei link, eccetera, che che tanto è inutile ve li dico ora, perché le cose dette in radio così di solito almeno io non ci capisco mai niente, quindi è meglio averle scritte. Cercatevi poi il podcast e così vi potete sia riascoltare la puntata, se ci tenete un sacco a risentire ancora la mia voce, oppure semplicemente cliccate sui link e vi leggete l'approfondimenti. Ora un altro po' di musichina e poi si va avanti con la trasmissione. Devastating effects drugs are having on our society and what is now termed the basehead syndrome. We'll also feature the controversial group Public Enemy and their new album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, which is causing ruckus everywhere. Here it is, bam, and you say damn, this is the dope jam, but let's define the term called dope and you're thinking me fucking now, no kidding. You know what I'm saying? Hey yo, Cheryl, kick the ballistics, G. Up front, an ultra-hyper faction known as the Brown Bags lodged a protest today against rap music. Yo, bust this, man. Don't listen to Flame, man. Yo, right here live, covering for the protest for PETV. Live is my homeboy, Chris, man. Well, you know, Chris, all the rap noise and the violence associated with it is bringing our country to its knees, and we're not going to stand for it anymore. And we, the Brown Bags, have a plan to put an end to it all. Here is a true tale. Why the ones that deal, all the ones that fail, yeah. You can move if you want to move. E continuiamo a parlare di spionaggio di Stato, probabilmente, con quest'altra notizia. Questa si riferisce a qualcosa che non è facilmente attribuibile, ma si può sospettare chi l'abbia fatto. Vi parlerò di una cosa che si chiama, è stata così denominata Slingshot. Si tratta di quella che viene definita un Advanced Persistent Threat, APT. Se ne sente abbastanza parlare nel mondo dell'informatica, è così che vengono definite, diciamo, le strutture complesse, durevoli nel tempo, atte a, al cyberspionaggio o a qualcosa di questo tipo. Sarebbero quelle strutture che in maniera permanente sono state fatte per veicolare malware, raccogliere le informazioni, riportarsele a casa in qualche modo. Queste strutture tendenzialmente di solito sono possedute da grossi governi o comunque da gruppi che hanno un interesse e delle risorse tali da poter mantenere strutture complesse di questo tipo. Spopolano ormai sull'internet, nel senso che non passa settimana senza che qualcuno salti fuori dicendo ho scoperto una nuova APT, sono questi qua e utilizzano queste macchine. Poi queste macchine di solito che solitamente utilizzano dei domini anche abbastanza diciamo confondenti, nel senso che se voi guardate molto spesso utilizzano dei siti completamente banali che non dicono niente, che sono soltanto lì diciamo la facciata a la raccolta delle informazioni, poi passarli a strutture basate su tunnel VPN eccetera eccetera e farle arrivare a casa di chi se le costruisce. In particolare che ne so, se volete guardarvi un report dettagliato anche con codice sorgente di una di queste strutture, potete guardare su WikiLeaks tutta la serie di documenti relativi ad Hive, che era appunto l'APT in uso alla CIA. Di questo sono pubblicati anche pezzi di codice sorgente, se siete curiosi di vederla è scaricabile appunto dal sito di Wikipedia. È stato l'ultimo, tra l'altro, rilascio, il primo di Vault 8, che sarebbe il numero dopo Vault 7. Vault 7 era sostanzialmente una serie di documenti che riguardavano appunto l'infrastruttura informatica in uso alla CIA. Vault 8 dovrebbe essere stata il rilascio, diciamo, della parte di codice sorgente. Finora Wikileaks ha rilasciato soltanto Hive, e quindi niente, se vi volete dare un'occhiata a questo. Però quello di cui vi volevo parlare è in realtà un report di circa 25 pagine fatto dalla Kaspersky, che è l'azienda, l'antivirus noto che ha sede in Russia, e che riguarda appunto una di queste APT che hanno denominato Slingshot, e che attacca un tipo di hardware abbastanza particolare. Sembra infatti che il target principale siano dei router che utilizzano come dal punto di vista dell'hardware che ci hanno sopra robe prodotte dalla MikroTik. E perché vi dico tutte queste informazioni alla fine poco interessanti? Ma perché proprio in Vault 7 si parlava di un tool chiamato CMyRead che conteneva un exploit per questo tipo di router. Questo exploit è attualmente anche disponibile su GitHub, quindi tendenzialmente è possibile che qualcuno l'abbia utilizzato, ma anche possibile che in realtà questo Slingshot sia un'infrastruttura messa in piedi per l'appunto dalla CIA. Non lo sappiamo, l'attribuzione di queste cose non è sempre semplice. Questa cosa però è interessante perché? Perché allora, compromettendo un router, cosa succede? Poi compromettendolo come? Allora, compromettendo un router, anzitutto si ha controllo su tutto il traffico che ci passa. Quindi diciamo che se io comprometto un router di una rete, di una qualche azienda, tendenzialmente è un buon punto per iniziare a compromettere anche tutto il resto dell'azienda, e comunque tutto il traffico passerà di là. Ma se non bastasse, in realtà questo tool che utilizzavano, questo tipo di attacco, prevedeva in realtà una cosa più interessante del semplice compromettere il router. L'idea era quella di compromettere il software di amministrazione di questo router. In particolare questa tipologia di router utilizzava un software che si chiama Winbox, ed era appunto un software utilizzato per l'amministrazione del router, cioè quello che l'amministratore di sistema si installa per poi andare a configurare il router. Ora, questo Winbox, per motivi a noi ignoti e anche penso a chi l'ha scritto, carica sostanzialmente delle librerie direttamente dal router che io prima ho compromesso. Allora loro cosa facevano? Compromettevano il router, riscrivevano queste librerie, queste DDL che poi Winbox va a caricare, e caricando queste librerie compromettevano anche, che erano librerie taroccate, cioè erano quelle che vi ho spiegato all'inizio prima, era il regalino insieme alla libreria originaria. Tra l'altro interessante il fatto che loro si preoccupavano anche che la libreria originaria avesse la stessa dimensione, cioè la libreria troianizzata, cioè quella con il regalino dentro, avesse la stessa dimensione di quella originale, così era più difficile capire se quella cosa era stata compromessa o no, perché uno diceva ma sono uguali, sono grandi uguali, e poi invece no, è perché loro furbi cosa avevano fatto? Prima compromettevano il router, poi pigliavano la libreria, la comprimevano in modo da lasciare dello spazio, in quello spazio zac! Ci mettevano il Trojan. E questo Trojan cosa faceva? Una volta arrivato sulla macchina, in questo caso in particolare la macchina dell'amministratore di rete di solito, perché sto Winbox chi lo utilizza? Chi configura la rete? Quindi io mi piglio la macchina dell'amministratore di rete. Una volta che ho la macchina dell'amministratore di rete, considerato che lui metterà le mani dappertutto, facilmente mi piglio tutta la rete. In più ho anche il controllo del router, a quel punto diciamo che anche un'infrastruttura piuttosto grossa può considerarsi compromessa, se non in ogni singola macchina, comunque potenzialmente in gran parte della struttura. E quindi loro si occupavano appunto, cioè un attacco molto più raffinato di quelli diciamo che sono in uso anche in, diciamo nei paper che si leggono, dove spesso queste APT sono tenute assieme da delle infrastrutture che, sebbene efficaci, poi non sono quel granché. Ne parlavo appunto in un mini talk la settimana scorsa, appunto parlando di Dark Caracal, che era un'altra di queste infrastrutture pare legate in qualche modo al governo libanese, e appunto i tool che loro usavano in realtà erano non così sofisticati, erano più semplici, molto più semplici anche da analizzare, da capire, eccetera, non meno funzionali, nel senso che comunque avevano compromesso un sacco di target anche molto mirati, cioè militari, politici, diplomatici, eccetera. Questo tool invece opera diciamo su un altro livello, nel senso che proprio i moduli di questo oggetto sono molto più raffinati. In particolare si basa sostanzialmente sull'interazione tra due moduli, uno che si chiama Canadr, non so come leggerlo, onestamente non lo so. Comunque è un modulo che opera questa volta a livello del kernel, quindi a livello diciamo proprio del sistema operativo, e un altro che si chiama Gollum App, con omaggio al Gollum, proprio quello del Signore degli Anelli, che invece opera in quello che viene detto user mode, cioè a livello più applicativo e quindi del singolo utente. La collaborazione di questi due moduli consentiva sostanzialmente quello che viene detto l'information gathering, cioè raccolgo informazioni sull'ambiente che mi sta attorno, consentiva la persistenza, nel senso che operando anche a kernel mode potevo rendermi invisibile anche agli occhi di qualcuno che cercava. Perché? Perché dirottavo direttamente il kernel dove mi pareva a me, e quindi il processo Gollum App probabilmente non emergeva mai all'interno del sistema, e permetteva infine la cosa importante, che è la cosiddetta data exfiltration, cioè copio i dati, li piglio e me li porto via. Il modulo questo del kernel conteneva un sacco di cose, tra cui anche tecniche anti-debugging e varie altre cose. Le tecniche anti-debugging erano anche abbastanza interessanti poi da studiare tecnicamente. Se siete proprio curiosi, guardatevi il report appunto della Kaspersky Lab, che anche questo ve lo linko poi sul blog, perché è comunque interessante, visto che loro le menzionano non nel dettaglio, però le menzionano quantomeno nel concetto, per cui poi potete andare a approfondirle tutte se vi interessano di più. E, diciamo, per quanto riguarda l'attribuzione non è molto, molto chiara, però la Kaspersky dice due cose abbastanza ovvie ma interessanti, che connotano un pochino. Dice che comunque è un gruppo altamente specializzato e probabilmente di lingua inglese, e vedete un po' voi. E, diciamo, questo tipo di infezioni hanno diciamo avuto, sono abbastanza localizzate, nel senso che si è ritrovato in alcuni stati ben precisi, in particolare hanno colpito sostanzialmente tutta l'Africa, quindi sembra un implant fatto apposta per colpire un'area geografica ben precisa. E quindi, con questa notiziola, che è durata probabilmente un sacco di tempo, avevo parlato un sacco, vi avrò confuso e annoiato come faccio sempre, per ora concludo la puntata, metto un pochino di musica. Ci sarà ancora un'ultima notizia, che in realtà è la recensione di un libro che sto leggendo, che mi sono procurato la settimana scorsa in quel del pre-hack meeting al Forte Predestino a Roma, e poi vado a concludere e allegramente me ne ritorno nel mio silenzio, e ci risentiremo poi la prossima settimana con una puntata credo un pochino più corta, ma credo non meno interessante, ecco. Yeah. try to stay away from it, but it won't stay away from me. You better ask yourself. What do you want? What do you need? What will you find? Don't be afraid. Don't fall asleep. Open your mind. I hope this rhyme gets you in time and space. Come to a different place where you hear spiritual lyrical knowledge in your face to face. Like welfare. In these rappers' lyrics, they need help. Yeah. This KRS represent heaven, hell yeah. Let me take you elsewhere. Where you stand is a curse there for sure. Unless you're mature, grow up. If you're immature, then you're living sinister. You reject the words of the minister. You better get with your Quran or Bible. You won't be living long if you're living idle. The teacher, that's my title. Shaking it up, waking it up, making it up, breaking it up, taking it up higher. No liar, you can't deny the public enemy with the public enema. I get to make you bring your butt out. I rocks, cause it's hip hop, the long raster. Chuck D with blast murderer. I know you heard of the word, I'll be swerving and serving ya. Alerting ya, while spurting your divine speech. Slow the party down so I can spit it. To each I teach, mystic lyric. Don't stop, you can get it, you better hear it. Battle, quit it. Unstoppable, public enemy on the disc. Unstoppable, gun in the game, Chuck your Chris. Unstoppable, bet you didn't know they had grip. Unstoppable, you don't wanna take this risk. Unstoppable, public enemy on the disc. Unstoppable, you don't wanna take the risk. Kill a black-headed stepchild. Running mile forever like a juvenile. To stay alive, surviving in a freestyle. You hold it down, walking on the wild side. To live and die, damn another slow song. Your money, put the record back the fuck on. No respect for the usual suspects. Mad teens pouring fire on the gasoline. The beat fiends, feeling like fever. I'm getting warm chalk marks in a rainstorm. Children of the going lost and forgotten. Minds rotten, the arcade shot them. Channel Zero on the TV got them. If you don't love yourself, you can't love nobody. If you don't know yourself, then you nobody. Do your thing, no bang. In the same damn gang, I never sang. I'm back, but I transcend slang. Silence in the face of violent crews. My rhymes and news be blacker than most blues. Troubling, it all come tumbling. For the struggling occupations, daily operations, stimulation, causing mental violations. Minds on vacation, in the middle of revelation is a nation. Unstoppable, public enemy on the disc. Unstoppable, gun in the game, Chuck your Chris. Unstoppable, bet you didn't know they had grip. Unstoppable, you don't wanna take the risk. Unstoppable, public enemy on the disc. Unstoppable, gun in the game, Chuck your Chris. Unstoppable, bet you didn't know they had grip. Unstoppable, you don't wanna take the risk. Unstoppable. Andiamo quindi a concludere questa puntata con la recensione di un libro. Ve ne leggerò anche un pezzettino, tratto dalla sua introduzione. Il libro si intitola Sobirania tecnologica, sovranità tecnologica. L'avrò letto giusto? Boh, che ne so. È un libro scritto originariamente in catalano e poi tradotto da alcune realtà italiane, in particolare a Clabbo e Havana, sono citate qua nel retrocopertina. A Clabbo è sostanzialmente l'e-club che si trova nei sotterranei di XM24 a Bologna, e Havana è l'acronimo di avviso ai naviganti, che è uno di quegli club, ma allora non c'erano ancora, diciamo, di quei collettivi storici che ha sede nelle mura del Forte Prenestino a Roma. E niente, questo libro è stato prodotto nella sua prima versione anni fa dalla comunità sostanzialmente che gravita attorno a Calafù, che è una realtà spagnola di cui abbiamo già parlato in qualche altra puntata. Vi metterò anche qui dei link su wombat.noblogs.org per chi è interessato ad approfondire. Poi a questo è stato integrato probabilmente altro materiale, visto che c'è anche un articolo a cura di Ippolita, che è un progetto anche questo editoriale vicino al collettivo che organizza tutti gli anni alla comunità di Hack Meeting. Ecco, e quindi niente, vi vado a leggere un pochino questa introduzione a questo libro che si configura come una serie di piccoli saggi su il tema della sovranità tecnologica, che penso che sia un termine preso in prestito dalla sovranità alimentare. Io non lo so spiegare molto bene, sto ancora leggendo il libro per intero e quindi... diciamo, lascio all'introduzione scritta diciamo, da alcuni delle persone che hanno contribuito a questo libercolo l'onere di introdurvi a queste tematiche. L'introduzione è appunto curata da uno delle persone, credo, gravitanti attorno alla comunità di Calafu. E così scrive: mentre scrivo, l'elettricità che alimenta il mio computer Frankenstein, mille volte operato e resuscitato, si sta interrompendo. Tutto questo contribuisce alla mia sensazione di vivere in una nave spaziale e mi ricorda di quanto possano risultare precarie le nostre infrastrutture. La mancanza di pianificazione e di resilienza sono causate da una manutenzione sempre più precaria delle infrastrutture pubbliche. Giochi politici decisi da persone le cui vite risultano molto più corte di quelle delle infrastrutture che gestiscono. Pressioni e traffici di influenze per essere reeletti e cariche date sulla fiducia, corruzione sistematica, la distanza delle istituzioni dalla cittadinanza, il pubblico privatizzato, i beni comuni vandalizzati e saccheggiati. Intanto le infrastrutture tecnologiche, sociali e politiche sulle quali si mantengono i nostri stili di vita sono sempre più complesse. Forse proprio per queste ragioni chi gestisce la cibernetica del controllo di queste infrastrutture sembra incapace di comprenderne il funzionamento e capire quando si romperanno le dighe di New Orleans, la rete elettrica cadrà in blackout epici, le centrali nucleari saranno infettate per colpa di Stuxnet o il sistema finanziario globale collasserà rovinosamente. Nella mia comunità, il mio posto in questo mondo in cambiamento, le cose saltano per aria ogni 2x3. A volte l'elettricità smette di fare luce, il progetto di gestione integrale dell'acqua si blocca, il fattore umano gioca a demolire la nostra tanta agognata stabilità. Ci sono grandi somiglianze tra quello che cerchiamo di conseguire in maniera autogestita con le nostre infrastrutture di base, l'acqua, l'elettricità, bagni, cucina e internet, e quello che succede in molti altri luoghi semi-urbanizzati in questo gigantesco planet of slums in cui si sta trasformando il pianeta. Forse questo dossier non darà soluzioni a temi così ampi, ma suggerisce modi alternativi di intendere le questioni tecnologiche. Fa parte della ricostruzione delle cose a modo nostro, dato che, come osservava Gibson, la strada trova sempre i propri usi delle cose. La sovranità tecnologica ci fa tornare al contributo che diamo allo sviluppo delle tecnologie, riscattando i nostri immaginari radicali, recuperando la nostra storia e memoria collettiva, risituandoci per poter sognare e desiderare insieme la costruzione, qui e ora, delle nostre infrastrutture di informazione, comunicazione ed espressione. Ecco, questo era un estratto, nel senso che ho tagliato alcune parti, forse si è capito perché a un certo punto ho girato una pagina e effettivamente ci poteva essere un salto anche di senso rispetto a quello che avevo appena letto, ma non troppo, credo, spero, è che tutta l'introduzione era abbastanza lunga e quindi l'ho un pochino tagliata. Comunque, insomma, si capisce abbastanza di cosa si parla. Diciamo che le tematiche affrontate variano... Oddio, ho fatto qualcosa di brutto, tipo toccare un cavo che non dovevo toccare, quindi avete sentito un'interferenza tipo cra cra cra. Vabbè, comunque io l'ho sentita peggio in cuffia, mi sono quasi stordito con questa cosa. Diciamo, i campi tematici di questo saggio spaziano un po', vi provo a leggere il sommario, diviso in prerequisiti, tra questi ci sono sistemi operativi liberi, internet libera, hardware libero, server autogestiti, poi c'è l'area campi di sperimentazione, e lì si parla di motore di ricerca, biblioteca pubblica digitale, decentralizzazione reti sociali, anticensura, criptomonete, esplorazione spaziale. Spazi per sperimentare è l'ultima sessione in cui si introducono i concetti di ECLAB, FabLab, BioLab e poi si parla un pochino della comunità di Calafu, che è appunto quella che ha operato la prima revisione di questo testo. E poi niente, c'è cioè, contributi e ringraziamenti e le solite cosine. E, tra l'altro, nei contributi e ringraziamenti penso ci siano anche una serie di link utili che vi potete andare a vedere anche solo per conoscere un pochino meglio i personaggi che hanno le comunità che hanno lavorato a questo libro. E quindi nulla, questo libro ve lo recensisco, ma non so dirvi precisamente dove lo potrete recuperare, nel senso che non so ancora quale tipo di distribuzione si sia strutturata intorno al progetto. Io appunto l'ho recuperato al PRAC meeting, presumo che nelle migliori distribuzioni autogestite lo troverete, sicuramente lo ritroverete all'ACM meeting di quest'anno, che appunto vi ricordo ancora una volta sarà a Genova il 6, 7, 8 luglio, l'ho detto giusto? O era il 5, 6, 7? Allora, me lo devo scrivere su un braccio, così almeno poi lo ripeto mille volte. Allora era il 6, 7, 8 luglio, sì. E quindi nulla, con questo mini recensione introduzione a questo libercolo, di cui magari nelle prossime puntate vi leggerò qualche altra cosina, o comunque lo utilizzerò per prendere spunto per cose di cui parlare e raccontarvi, chiudo la puntata, vi lascio ad ancora un po' di Public Enemy e con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, prometto che non mancherò, ciao a tutti. 20,000 maniacs just gotta be. You and I like clicks, they wanna be. Hopping, turning rockets and killing me. The gun didn't know I was loaded. Double attempts to get heroes railroaded. Stonewall from lost souls. For whom the final bell tolls. Confused with Moses and street clothes. He's a bonus, he's the one with the palm rolls. Bless the units outside day. Do you know the way to your ABA? One on one, one on one, one. It's just begun, gun, gun, gun. Come to the house, house, house, house. Me if I rhyme on silky tracks. It's a nation to get back. Might sometimes the opposite of what you